Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Chi mi ascolta, sono certo, avrà almeno una volta questa settimana pensato di andare via. E nella sua vita decine e decine di volte. Non è così per un giovane americano, per un giovane tedesco, per un giovane francese, per un giovane inglese. Non è così scontato. Il giovane americano che vuole andare via lo fa perché sa che altrove trova la sua vocazione. Non perché è inimmaginabile trovare lavoro, dignità, possibilità di assunzione se non per mediazione, per raccomandazione anche quando si è bravi. E di queste 100.000 persone, che, ed è un dato per difetto, perché sono in realtà molte di più, nessuno parla. Di tutto questo nessuno parla. Il problema è gigante. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Il video editoriale di Roberto Saviano, confezionato per il sito web Yahoo, apre oggi la nostra puntata. Il giornalista e scrittore dà il suo punto di vista, ovviamente molto critico sul tema fuga dei cervelli, sottolineando il dramma delle poche opportunità di lavoro per i giovani, quale premessa della loro fuga. Poche settimane fa l'Istat, su dati riferiti al 2013, parlava di quasi 500.000 di posti di lavoro scomparsi, con tassi in calo soprattutto tra gli under 35. Su una cosa però Saviano sbaglia: di questi giovani qualcuno parla. Lo facciamo noi di Giovani Talenti ogni settimana da 5 anni. La frase della settimana è copyright di Fabiola Gianotti, neodirettore generale del CERN. Incoraggerei i giovani che non trovano lavoro in Italia ad andare all'estero. Consiglierei a tutti i ragazzi di passare un periodo in un altro paese perché ci si arricchisce. Il problema dell'Italia, aggiunge la Gianotti, è che se poi volessero tornare, spesso non avrebbero la possibilità di farlo perché non ci sono posti, non c'è un sistema meritocratico, non ci sono infrastrutture. Attenzione ora, secondo quanto riportato pochi giorni fa dal Corriere della Sera, il governo starebbe preparando una norma per favorire il rientro dei cervelli in Italia, aggiornando e prolungando la legge contro esodo ormai venuta a scadenza. L'idea sarebbe quella di estendere i benefici fiscali anche a manager e personale altamente qualificato, indipendentemente dall'età. La norma verrebbe inserita nel cosiddetto Industrial Compact. Vi terremo ovviamente aggiornati. Ora invece prendiamo la strada dell'estremo oriente. Vado in Cina con la mia famiglia, un viaggio di piacere che però mi ha cambiato totalmente la testa, perché mi ha fatto vedere che non era tutto come era in Italia. C'erano altri paesi in cui tutto funzionava e c'erano davvero delle prospettive per i giovani. Alice Zuliani, 29 anni, è una start-upper a Qingdao in Cina. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Buone notizie per cominciare. Secondo il rapporto Decoding Global Talent, realizzato su scala globale, il 25% del campione di intervistati è attratto a livello lavorativo dall'Italia nonostante la crisi, a preferirci soprattutto argentini, turchi e americani. A livello generale però è Londra a confermarsi la città più ambita per lavorare, decima Roma. Siete professionisti? Volete emigrare in Germania? Il governo tedesco ha messo online il portale Riconoscimento in Germania, che offre informazioni utili su come farsi riconoscere i propri titoli professionali. Tra i servizi offerti, lo strumento trova l'ufficio riconoscimento per individuare l'ufficio competente a cui presentare domanda. Inoltre, informazioni sui fondamenti giuridici, sulle procedure di riconoscimento per le diverse professioni e sulle offerte di consulenza. Indirizzo web anerkennung-in-deutschland.de. E alla notizia che il governo tedesco sta cercando 8.000 medici, il social network italiano Nuto, dedicato proprio ai camici bianchi, ha girato la domanda ai suoi iscritti: accetteresti di esercitare la professione medica in Germania? La risposta è stata chiara: il 65% degli intervistati farebbe volentieri le valigie verso nord. Intanto proprio la Germania è diventata la prima destinazione di immigrazione in Europa e la seconda tra i paesi OCSE alle spalle degli Stati Uniti, mentre l'Italia, quarta in Europa e quinta tra i big industrializzati, scende in graduatoria. Come emerge dal rapporto sulla migrazione, nel 2012 la Germania ha accolto quasi 400.000 immigrati, meno degli Stati Uniti dove gli ingressi sono stati 1 milione, ma più dei 258.000 giunti in Italia. Buona parte di questi ingressi permanenti proviene dalla stessa Unione Europea. A un anno dal termine degli studi, nel 2013 risultava occupata in Italia solo una persona su quattro, con un sostanziale dimezzamento rispetto a quanto accadeva nel periodo precedente la crisi. Lo afferma il rapporto ISFOL, secondo cui sul fronte occupazione si è fatto un balzo indietro di 10 anni. L'istruzione resta comunque la via per avere maggiori chance, anche se con la crisi si assiste però a un processo di ricollocazione della forza lavoro verso profili più bassi. Nel 2012 la percentuale di overeducated tra i laureati e i diplomati sfiorava il 20%. Ed è massiccio il numero di giovani laureati che si spostano dal sud al nord del paese, a sostenerlo Banca d'Italia. La mobilità dei giovani è legata in primis alla ricerca di lavoro. E allarme intanto per i giovani professionisti italiani. Secondo ADEP, associazione che riunisce 19 casse di previdenza, il reddito di un professionista under 40 è pari al 50% in meno del collega over 40, in 5 anni meno 20%. Aveva fatto molto discutere a settembre l'iniziativa del sindaco di Elmas in Sardegna, Vincenzo Piscedda, che aveva varato il progetto Adesso Parto per finanziare economicamente l'espatrio dei suoi concittadini. 1.200 euro a chi voleva andare all'estero a cercare lavoro. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale c'era la possibilità di un ritorno dopo la formazione oltre confine. Intervenuto a effetto giorno, Piscedda racconta i risultati dei primi 3 mesi. I numeri hanno sorpreso in positivo la stessa giunta. Sentiamo perché. Noi non abbiamo deciso e cercato noi le persone per andare fuori. Abbiamo risposto a chi ci chiedeva di voler andare fuori e ci diceva di non avere la possibilità. La miglior risposta è stato l'esito, nel senso che a chiusura del bando, su 2.098 tra disoccupati e inoccupati che noi abbiamo ad Elmas, si sono presentati in 13. 13 ragazzi hanno fatto la domanda per avere questa possibilità. Di questi 13, una persona non aveva i requisiti, una ha rinunciato, quindi sono rimasti in 11. Quindi questo proprio dimostra che non è un incentivo del comune, ma era una scelta, cioè queste cose si fanno se c'è una scelta di vita di fondo. La risposta che mi sono dato io è questa: intanto era l'ultimo di diversi interventi che abbiamo fatto, quindi penso che la maggior parte avessero scelto i precedenti interventi. La seconda motivazione, penso, l'essere sardi è una malattia, una bella malattia di cui anch'io sono affetto, non amiamo spostarci e se ci spostiamo lo facciamo per ritornare. La terza è che probabilmente le misure poste in campo negli ultimi mesi della Regione Sardegna stanno cominciando a dare i propri effetti. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta fino in Cina. Lo facciamo per raccontarvi una scommessa di successo che unisce imprenditoria e design. A lanciarla, due giovani italiani. Nome: Alice. Cognome: Giuliani. Età: 29. Città di origine: Udine. Studi: laurea magistrale in economia aziendale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? Per inseguire il sogno di fondare un'azienda di design in Cina. Quale lavoro svolgi attualmente? Mi occupo dei marketing e delle vendite nella mia azienda. Dove? Tra Hong Kong e Qingdao. Tornerai? Chi può dirlo? Il mio primo viaggio in Cina mi ha dato un sacco di energia e voglia di fare. Quando sono tornata in Italia, la situazione stagnante del mio paese non mi pesava più perché la consideravo già come passato. Così, Alice, ricordi lo spartiacque che ha segnato per sempre la tua vita. E voglio essere provocatorio per iniziare. Vista dalla Cina, l'Italia oggi appare come il passato, un paese con un grande futuro, ma alle spalle? Pesa ammetterlo, ma l'Italia è un po' un paese fermo. Sono in Asia da 3 anni e ogni volta che guardo il telegiornale o leggo i giornali online mi sembra un po' che non sia cambiato nulla. Quindi sì, l'Italia è un paese che un po' vive nel passato. Diciamo che è come un romanzo in cui cambiano i personaggi ma la trama rimane sempre la stessa. La tua storia per iniziare: studi economia aziendale all'Università di Udine, perché? Un po' perché il marketing è un po' sempre stata la mia passione. Mi affascinava studiare la storia delle grandi aziende, sia italiane che all'estero. E quindi ho deciso di fare questa scelta di studiare economia. Ma ti ha soddisfatto il percorso in accademia? Che voto complessivo daresti al periodo in Ateneo? Sono rimasta molto soddisfatta dal percorso che ho fatto, della scelta che ho fatto. Però due osservazioni. La prima è che l'università italiana, nella mia e come in tutte le altre, credo, c'è tanta teoria, tanti esami, ma alla fine poca pratica. E la seconda cosa? La seconda è la lingua. Cioè l'85% dei miei compagni all'università non sapeva l'inglese. Questo è grave. Io lo sapevo. E questo è grave. A quel punto opti per una carriera come commercialista, un lavoro molto italiano, tipico di un paese dove la giungla della tassazione obbliga spesso e volentieri a ricorrere a consulenti fiscali. Visto a posteriori, con l'attuale proiezione internazionale, rifaresti quella scelta? No, forse non la farei. Per chi definisce giovani chiusi, quanto è stato difficile quel periodo di lavoro in Italia per te? 3 anni di pratica obbligatoria, non retribuiti, con un secondo lavoro nel weekend per avere un minimo di indipendenza economica. È giusto secondo te? No, non è giusto. Cioè, la cosa che mi fa sorridere è che molti studi ti dicono: non ti paghiamo perché ti paghiamo in conoscenza e quindi non serve che ti diamo del denaro. Poi ti mettiamo a fare dei lavori tipo raccomandate, cose così. Quindi proprio è uno sfruttamento, non, sì, non è una cosa bella. Hai usato il termine esatto, questo è lavoro gratuito, non è tirocinio. Non è stato però solo quello il problema. Il problema era anche e soprattutto di contesto, il contesto di un nord-est sprofondato nella crisi dove i fasti del passato e la ricchezza accumulata lasciavano sempre più rapidamente il posto alla depressione e alla consapevolezza di uno scivolamento in una situazione di non futuro. Quanto è pesante tutto ciò psicologicamente per un giovane che muove i primi passi nella vita adulta? È difficile. Se vedi che gli altri che lavorano una vita non ce la fanno, i tuoi amici laureati brillantemente non ce la fanno, parti già scoraggiato e dici cosa posso fare io per riuscire a farcela nel mondo del lavoro, e quindi diciamo parti un po' depresso. Ti faccio una domanda da giovane economista: quanto la crisi di oggi dell'Italia, come dei suoi motori economici del nord, è figlia secondo te di un paese che per 30 anni ha scelto di sedersi e vivere di rendita senza modernizzarsi, innovare, rischiare, insomma che si è chiusa nella sua isola felice autoreferenziale? Ma guarda, non so quale sia la causa di tutto. Le aziende in Italia, finché operavano in Italia, andava bene. In Europa, quando hanno cominciato a operare in Europa, potevano fare gioco del made in Italy, ma quando ti scontri con un mercato globale è il prezzo che vince. È la globalizzazione, Italia... bellezza, verrebbe da dire, no? Esatto, il prezzo in Italia tanto basso non lo puoi fare per tante ragioni e quindi perdi, le aziende italiane hanno perso. Zero prospettive, così riassumi la vita che vedevi davanti a te solo 3 anni fa, non un secolo fa. Poi arriva un viaggio che spariglia tutto. Dove vai? In Cina, vado in Cina con la mia famiglia, un viaggio di piacere che però mi ha cambiato totalmente la testa, perché mi ha fatto vedere che non era tutto come era in Italia, c'erano altri paesi in cui tutto funzionava e c'erano davvero delle prospettive per i giovani ed è cambiato tutto, da lì è cambiato veramente tutto. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. La mia missione da quel momento, una volta rientrata in Italia, è stata solo quella di organizzare la partenza e, cosa più ardua, convincere Davide, il mio compagno, che quella sarebbe stata la scelta giusta per entrambi, ma soprattutto per lui. Così ricorda Alice il momento di cesura. Davide, ti chiamo in causa, tra poco ci racconterai meglio, ma una domanda te la faccio subito: perché non ci volevi andare in Cina? Semplicemente perché era la paura di cambiare, la paura di lasciare, diciamo, tutto quello per cui avevo studiato, che mi fermava. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alice Zuliani, 29enne startupper con Bozu in Cina. Alice vi approda dopo una laurea in economia aziendale, una carriera ormai avviata da commercialista. Tuttavia il clima di crisi e depressione le suggerisce di lasciare l'Italia, anche per smetterla di dover fare due lavori per mantenersi. Un viaggio in Cina le fornisce la chiave di volta. In pochi anni Alice si trasferisce in Estremo Oriente e fonda col suo compagno l'azienda di design Bozu. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Alice, come si fa a prendere una valigia, lasciare tutto e andare in un altro continente senza avere nulla là ad aspettarti? Ce lo scrivi tu stessa, all'inizio non è stato facile. È stata dura, ci vuole un po' di molto coraggio e io avevo la fortuna di avere Davide accanto a me, quindi insieme è tutto un po' più facile, però sicuramente una bella sfida. In Cina avete cercato lavoro? Se sì, con quali risultati? Abbiamo cercato lavoro e abbiamo anche avuto dei buoni riscontri all'inizio, però non è facile perché c'era tutto il mondo che si stava in quel momento muovendo in Asia e ragazzi della nostra stessa età, stranieri, sono molte più lingue, sono molto più preparati per il mercato del lavoro e quindi è un bello scontro, una bella lotta. Come nasce l'idea di aprire una vostra azienda in Estremo Oriente? Quanto è stato determinante anche l'aiuto di un investitore italiano che conoscevate? L'idea di aprire un'azienda di design è sempre stata il nostro sogno, anche quando vivevamo in Italia. Non pensavamo di farlo in Oriente. Il fatto che ci abbiamo trovato un investitore italiano che fosse un amico di famiglia e che ci ha dato una mano è stato fondamentale. Senza soldi all'inizio è difficile far partire una startup. Arriviamo al nocciolo della questione. Cos'è Bozu, azienda che fondate nel 2012? Che tipo di prodotti realizzate? Bozu è un'azienda di design, è un'azienda che diciamo sviluppa accessori per la casa, disegnati da Davide all'inizio, ma anche adesso da altri designer italiani. Sono prodotti un po' diversi, in cui giochiamo con le forme, col design, per creare qualcosa di totalmente innovativo, qualcosa che faccia sorridere, che faccia pensare. Infatti tu stessa ci racconti, per molti mesi abbiamo lavorato alla prima collezione di prodotti che abbiamo presentato alla Fiera del Macef a Milano. La collezione ha avuto grande successo, da lì siamo partiti ufficialmente, cominciando a vendere in tutto il mondo. Ed è anche molto bella questa cosa, che date spazio a giovani designer italiani. Però, per paradosso, il vostro mercato, più che in Italia, Italia e all'estero, l'Estremo Oriente in primis, ma anche Francoforte. Va bene che Nemo profeta in patria, ma quali sono le barriere all'ingresso che impediscono ad outsider di talento di penetrare il mercato italiano? I soldi. All'estero tutti i distributori, i negozi sono disposti a pagare subito la merce e a pagare gli ordini anche con cifre consistenti. In Italia purtroppo ci sono poche possibilità. I distributori, prima di puntare a un nuovo prodotto, a un nuovo marchio, ci pensano 100 volte e comunque fanno fatica a pagare in anticipo gli ordini, anzi non pagano quasi mai. E il rischio pare non fare proprio parte della nostra cultura. Essere imprenditori è una sfida continua, quotidiana, ci scrivi. Se si vuole rimanere a gala bisogna fare ogni giorno di più e meglio. È un mestiere difficile ovunque, ma sicuramente per noi sarebbe stato impossibile in Italia, concludi. Alice, al di là del trovare lavoro, il problema è che l'Italia è divenuta una terra sterile, una wasteland, per dirla con T.S. Eliot. Sì, è difficile, è impossibile e purtroppo per noi è triste, perché il sogno è sempre quello, no? Di tornare, di fare, di poter tornare dove siamo nati, dove c'è la nostra famiglia e i nostri amici, ma in Italia ce ne stiamo rendendo conto, non c'è molto futuro. Io me lo auguro, ma è veramente desolato, una terra desolata per adesso, speriamo che cambi. Ma proviamo a iniettare un po' di ottimismo. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, ma soprattutto una proposta concreta da cui ripartire? Bisognerebbe intanto cercare di dare degli strumenti, delle agevolazioni alle imprese per riuscire a lavorare meglio senza essere schiacciati dalle tasse e tutto il resto. Bisognerebbe fare veramente cambiare tante cose. All'estero è tutto molto più semplice, c'è molta meno burocrazia, tutto è molto più alla portata di mano. Sei una giovane azienda e hai tanti incentivi, cosa che in Italia manca. Ci raggiunge ora nuovamente in linea Davide Bonanni, designer partner nella vita ed impresa di Alice. Buon pomeriggio Davide. Buon pomeriggio. Allora, tu sei la mente creativa di Bozzu, perché hai scelto di studiare disegno industriale? Quale passione ti ha spinto in quella direzione? Sono cresciuto in una famiglia, diciamo, di persone creative. Avevo uno zio che faceva l'architetto, ho uno zio che fa il pittore, un cugino, anche lui designer, quindi è stato facile per me sviluppare un interesse, diciamo, in questo campo. Anche per te, come nella storia di Alice, c'è un prima e un dopo. Partendo dal prima, come ricordi a posteriori i mesi in Italia? A quali condizioni lavoravi negli studi di design? Per quanto riguarda i mesi in Italia, li ricordo molto, molto lunghi. Molto lunghi perché purtroppo, come parlava anche Alice, i progetti in Italia, lo sviluppo è molto lento e le condizioni sono condizioni a cui lavorano tuttora ancora i miei amici, condizioni che non ti portano a crescere e ad andare da nessuna parte, fondamentalmente. Eri pagato? Pagato molto poco. Concentriamoci ora sul dopo. In Cina esistono opportunità, anche perché il design italiano è molto apprezzato, ci scrivi. Quali sono queste opportunità nel concreto? Qua è tutto in fermento ed è questo che ti porta a trovare l'opportunità. Devi essere, diciamo, devi essere curioso e voglioso di rischiare e andare avanti e seguire il tuo sogno, insomma. In Cina però sono presenti anche grossi rischi per aziende creative, in primis quello delle frequenti violazioni del copyright. Una sfida quotidiana, come la definisci? Spiegaci meglio. Definisco una sfida quotidiana perché qui, chiaramente, ogni giorno hai a che fare con persone che hanno una cultura completamente diversa dalla tua. A me piace comunque vederla così, nel senso, se uno ti copia vuol dire che hai fatto bene. Non è una cosa molto, molto bella, ma bisogna, diciamo, abituarsi. Il Messaggero Veneto vi ha raccontato con un titolo forte ma eloquente: da disoccupati a designer in Cina. Tu stesso ci scrivi, in un paese in boom economico le possibilità e opportunità sono davvero molte, mentre in Italia non ce ne sono. Alla fine, quindi, Davide, è tutta una questione di opportunità e aprire spazi nuovi per i giovani. Uno le opportunità se le crea, bisogna avere la voglia di rischiare, bisogna essere curiosi. Quello che c'è qua e che non c'è in Italia è c'è il fermento, l'environment, che ti permette di avere voglia di fare e di continuare a sperimentare, a cercare cose che in Italia non riuscivi, diciamo, a fare per tanti motivi. Un'ultima cosa, quanti amici giovani designer hai incontrato sparsi per la Cina? Possiamo parlare di un'emigrazione o fuga dei nostri migliori talenti? Abbiamo incontrato diversi giovani designer, ma anche fotografi, artisti italiani, ma provenienti da tutto il mondo. Io parlerei assolutamente di fuga, la classica fuga di cervelli, no? Perché purtroppo per noi italiani non c'è, molto a malincuore, non c'è possibilità in Italia di dar vita ai sogni. Grazie a Davide Bonanni, in bocca al lupo. E domanda di rito per Alice Zuliani: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Di buttarsi, di scrivere in un foglio tutte i pro e i contro e di rendersi conto se è veramente quel sogno che ha nel cuore, che desidera davvero realizzare è una cosa che se non portasse a termine sarebbe un grande rimpianto. Quindi se veramente il sogno è forte, fare le valigie e partire. Tanto il tempo di tornare a casa c'è sempre. Quindi io dico, è meglio buttarsi, rischiare o non rinunciare a inseguire i propri sogni, perché poi dopo c'è, uno se ne pente, no? Io se tornassi indietro vi farei tutto. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: la BCE lancia il Graduate Program 2015. Francoforte cerca fino a 10 neolaureati di talento nei settori dell'economia e della finanza. Saranno inseriti in un programma ad hoc con contratto di 2 anni, scadenza per CV 31 gennaio, info su ecb.europa.eu. Il tutto mentre lo European Patent Office cerca oltre 150 tra ingegneri e ricercatori per impiegarli come esaminatori di brevetti, sedi di Monaco, di Baviera e L'Aia. Scadenza per CV 2 e 16 febbraio, info su epo.org. Infine vi ricordiamo che nella sezione Jobs del gruppo LinkedIn La Fuga dei Talenti sono presenti decine di offerte di lavoro di alto livello tra Italia ed estero. Iscrivetevi al gruppo e potrete consultarle direttamente online. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi torniamo a parlare di Berlino, città che negli ultimi anni è risultata tra le più trendy nell'espatrio dei giovani italiani, prima di venire recentemente superata da Londra. In ogni caso, la capitale tedesca resta una delle maggiori calamite a livello europeo per i nostri emigranti. Un sito web da qualche mese ha cominciato a studiare scientificamente i numeri di questa emigrazione. Ne parliamo con Federico Quadrelli, ideatore dell'Osservatorio degli Italiani a Berlino. L'idea nasce esattamente un anno fa, quando ero ormai arrivato già a Berlino, stavo già imparando la lingua, avevo trovato già lavoro e poi ho scritto il primo articolo per neodemos.it proprio sulla migrazione italiana a Berlino, perché i dati che poi andremo a vedere dimostravano che la comunità italiana stava crescendo in modo veramente enorme, esponenziale, però non c'erano studi. E andiamo allora a vedere questi dati. Innanzitutto ti chiedo, le fonti sono solamente l'AIRE o anche l'ufficio statistico tedesco? Le fonti sono più fonti, perché i dati sono purtroppo non organizzati in modo corretto. Il numero è enorme. Alla fine del 2013 sono più di 23.000 gli italiani ufficialmente registrati, quelli che si sono registrati in Berlino, quindi con i dati tedeschi ufficiali. Il numero AIRE è inferiore, perché ovviamente non tutti sono iscritti all'AIRE, anche se risiedono qua, e il numero è enorme, perché nel 2008 erano 15.842 e poi al momento della crisi nel 2011 c'è stato il picco. Siamo passati a 17.441, 19.771 nel 2012 e il trend è continuamente in crescita e positivo. Non dà segnali, a quanto capisco, di calare. Assolutamente no, pensiamo che andrà sempre ad aumentare, anche perché la città trae soprattutto giovani molto istruiti, che hanno almeno una laurea, conoscono almeno 2 lingue straniere e poi ovviamente dal punto di vista lavorativo non tutti poi faranno certamente quello che desiderano, ricercatori piuttosto che manager, non lo so, molti lavorano nella ristorazione e molti, moltissimi, sempre di più, nei servizi alle imprese, alle persone, per esempio il customer care di tante multinazionali in lingua italiana sono a Berlino. Quanto è forte la corrispondenza tra il desiderio di trovare qualcosa, un'opportunità a Berlino, e poi quello che la città effettivamente è in grado di offrire? Questo è il più grosso problema, vorrei dire, dal punto di vista psicologico e anche sociale, perché ovviamente c'è lo scoglio della lingua, una lingua molto difficile da imparare, ma se non impari la lingua è difficile integrarsi, comunicare anche con i tedeschi. Lavorativamente, quando arrivi, se non sai il tedesco devi accettare praticamente tutto quello che trovi. Per maggiori informazioni potete cliccare su osservatoriodegliitalianiaberlino.com. Un motivo per restare o tornare. Trasformare l'Italia in un hub dell'innovazione. Con questo obiettivo il decreto flussi 2015 online su www.integrazionemigranti.it intende facilitare la permanenza nel nostro paese di talenti stranieri che intendono avviare una nuova impresa innovativa. Con Italia Startup Hub gli studenti stranieri che hanno scelto le nostre università, i nostri laboratori e i nostri centri di ricerca hanno a disposizione uno strumento semplice per trasformare la conoscenza acquisita in impresa innovativa. Così ha commentato il capo della segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo, Stefano Firpo. Domande a Italia Startup Visa @mise.gov.it. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire a blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è Expo Talenti, dibattetevi in 140 caratteri.